Zolt. Fulminati in azienda. Realizzare un asilo aziendale è la cosa più innovativa e fashion che un'azienda come la nostra possa fare. Ma cosa stai dicendo? Quello che la nostra azienda può fare di innovativo e di fashion è profitto. I costi bisogna tagliarli, non crearli. Mi sono spiegato o no? Scusate se mi intrometto, però per me è importante dare la possibilità alle donne, sì, alle colleghe, dico, di lavorare in un ambiente che non solo si prende cura. Ma cosa avete bevuto stamattina voi due, insieme peraltro? State spaventandomi, state, cos'è, una campagna elettorale? No, non mi pare il caso di scherzare, questo è un argomento serio, su cui sarò intransigente. È arrivato il momento di emanciparsi. No, scusa, Marco, prova a immaginare cosa significa in termini di ritorno d'immagine. Sì. Poi pensa a tutti i colori che potremmo utilizzare, il giallo, il magenta inchiostro, il verde arlecchino, insomma una cromoterapia. Ascolta, ma come parlate? Cos'è questa cromoterapia che ogni due per tre mi tiri fuori? Noi siamo un'azienda orientata a un unico colore, il verde. Il verde, certo, siamo green, siamo ecologici. Ma quale ecologici e green? Verde come? The color of money. Non ce la posso fare, non ce la posso. Ammazza, che faccia che hai, ma che ti è successo? Sono distrutto. Altro che distrutto. Il treno, sembra che sei stato travolto da un tir, che c'è? Ma tu piuttosto dov'eri finito, si può sapere stavo o no? Stavo a lavorare. E stavi a lavorare, io ero qui con la fonte, con schedula che mi hanno travolto stamattina con la loro idea dell'asilo aziendale. Asilo aziendale, fonte schedula. Ma sì, centri, mi hanno teso un'imboscata stamattina, si sono presentate nel mio ufficio e hanno iniziato a bombardarmi di articoli, statistiche, io ho provato a resistere. Alla fine mi hanno sopraffatto e ho ceduto. Ma come? Come ceduto? Significa che mo ci tocca pure fare asilo aziendale. E poi dove lo facciamo? Chi se ne occupa? E secondo te, prova a usare un po' di immaginazione. Chi se ne occuperà? No, io non me ne occupo. Ah no? Ah no? E chi allora? Certo, lo sapevo. Sai che c'è? Penso che la persona più indicata per un incarico di questo tipo sia Pacco. Ma come Pacco? Mi sembra pure che uno dei suoi master sia in pedagogia. Ecco, e allora bravissimo. Sfruttiamo questi stagisti masterizzati. Ecco, ma dove lo costruimo stasilo? Famo una E come dove lo costruiamo? Ma che palazzetto, lo facciamo in mensa. Dividiamo la mensa in due, raddoppiamo i posti a sedere, da una parte i genitori a mangiare e dall'altra parte i bambini tra le palle colorate. Pacco, vieni qua che c'è un nuovo incarico per te. Eh sì, dottor Lamegacciamà. Pacco, devi costruire il nuovo asilo nido aziendale. Un asilo nido aziendale? Ma sei sicuro? Ma sono un'idea meravigliosa. Cioè, tutte le aziende che fa people care, almeno un asilo, eh? Pacco, mi devi spiegare perché te devi sempre esaltare per tutto. Zitto, t'ho detto che devi costruire l'asilo, non che devi esultare. No, mi vado a ciarare adesso subito la carriola. Solo che nel caso della nostra popolazione aziendale, cioè l'asilo, secondo me, non è tanto utile. No, non devi pensare, devi costruire. Allora prendi sta cazzola e comincia a costruire. Ma devi sta zitto, capito, Pacco? Zitto. Grande centri, ottimo lavoro. Alla fine sono proprio contento che abbiamo fatto questo asilo aziendale. Sì, però te devo dire una cosa, sono arrivate mo le iscrizioni. Dimmi. Sì, appunto, è fantastico, è venuto Centrifuga, sei stato bravissimo. Guarda, riesco già a immaginare i bambini giocare, le mamme compilare questionari di soddisfazione. Ma, meraviglioso. Ma guarda i colori, guarda, ma vedo che hai seguito i miei consigli. Guarda quel blu fiordaliso per il soffitto, non ho parole, entreremo in una nuova era. Sì, e Fonte, scusa se ti interrompo, ma domani non entriamo proprio in nessuna era. Sono appena arrivata le iscrizioni dell'asilo aziendale e sorpresa delle sorprese, non ci stanno bambinelli iscritti. Uè, ma siete matti, come non ci stanno bambinelli iscritti? Marco, prova a pensarci, quante donne che aspettavano un figlio sono rimaste a lavorare qui? Nessuna, sono state immediatamente licenziate. Ma del resto lo mettiamo noi nei contratti, no? Non è la nostra clausola contraccettiva. Le donne possono rimanere incinta solo dopo i 56 anni. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.